Siamo in collegamento con Sergio Sinigaglia, attivista del centro sociale Spazio Autogestito Arvoltura, proprio di Senigallia. Correggimi se l'ho detto nel modo sbagliato. Sergio, intanto ti saluto e ti ringrazio per essere qui con noi. Detto perfettamente, salve a tutti, a te e a chi ci ascolta. E allora noi siamo in collegamento in realtà per parlare di un viaggio a cui tu hai partecipato di recente, per portare quindi la tua esperienza, diciamo che è già diffuso un po' grazie a un testo che è circolato proprio nella rete dei centri sociali, di un viaggio che hai fatto in Palestina. Allora, per prima cosa ti chiederei come ci sei arrivato anche. Ma io sono andato in Palestina toccando Gerusalemme, Betlemme e Ramallah, grazie al viaggio organizzato di un'associazione di Roma che si chiama Matri per Roma Città Aperta, nata anni fa per iniziativa di Stefania Zuccari, che è la mamma di Renato Biagetti, giovane del centro sociale di Acrobat di Roma, ucciso dai fascisti nell'estate del 2006. A lei si è aggregata anche la mamma di Dax, altro giovane dei centri sociali milanesi, ucciso nel 2003. Ari Giuliani e altre mamme e con figli impegnati nei centri sociali. E quindi appunto sono andato perché avevano organizzato questo viaggio, in particolare visto che avevano raccolto, grazie alla vendita del libro di Zero Calcale dedicato a Renato, avevano devuto la parte dell'incasso della vendita del volume a un'associazione di donne di Ramallah per un progetto rivolto a bambini della città palestinese. Ecco, poi parleremo anche magari della situazione più in generale, però tu hai raccontato anche alcune storie, in particolare. Diciamo storie che ti sono state raccontate a tua volta durante il vostro viaggio, e quindi ti chiederei se ti va di raccontarcene qualcuna. Ma sì, noi intanto la cosa importante è che eravamo ospiti del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, storica organizzazione della resistenza palestinese, e questo ci ha consentito di entrare dentro la società civile palestinese e visitare e incontrare delle famiglie di queste città, in particolare a Gerusalemme, nel quartiere periferico della città, a Shafik, abbiamo incontrato alcune famiglie palestinesi che hanno avuto la tragedia immane di vedere i propri figli, ragazzini di 15 anni, 13 anni, uccisi o dai coloni o dall'esercito palestinese. In particolare, il primo incontro abbiamo avuto con questa famiglia, il cui figlio nel 2014, durante il Ramadan, è stato rapito da una squadraccia di coloni, messo nell'auto, portato in un bosco adiacente alla zona palestinese e bruciato vivo. Una vicenda micidiale, aberrante, che tra l'altro comunque arrivò anche in Italia, ma che insomma è purtroppo emblematico del clima, di quello che sta accadendo in quel conflitto che da decenni insanguina quei territori. Ecco, infatti ti volevo chiedere anche, diciamo, nel vostro viaggio cosa avete visto più in generale, nel senso quale situazione avete percepito, quali sentimenti anche, quale situazione anche all'interno del fronte proprio. Ma guarda, chiaramente a noi arrivano le notizie, ma arrivano di rimbalzo e non andando sul posto non ce ne si rende conto. La situazione è veramente allucinante, molto pesante, intanto perché appunto l'espansione di coloni ormai è senza limiti, ovunque ci sono insediamenti, costruzioni che ormai hanno invaso i territori palestinesi, anche in Cisgiordania. Noi parliamo molto del muro, che è il muro di Betlemme, quello più conosciuto, ma in realtà ormai diversi muri sono sorti, ci sono a Gerusalemme, ci sono intorno a Ramallah, cioè quindi c'è una situazione veramente di assedio nei confronti dei palestinesi che li costringe a una vita sempre più difficile. Tra l'altro noi a Betlemme abbiamo avuto appunto in questo giro come riferimento, in particolare come guida, un compagno trentenne del fronte che tra l'altro frequenta spesso anche Roma, viene spesso a Roma e ci ha fatto da guida. Siamo stati ospiti di questo campo profughi che sorge appunto davanti al muro a Betlemme, nucleo che è nato nel 48 dopo la Nakba, composto da 6.000 persone, e appunto abbiamo visto un microcosmo molto emblematico della situazione pesante, da un lato, in cui versano appunto i palestinesi, e dall'altra però anche la fierezza e l'orgoglio, la determinazione di chi resiste a una condizione sempre più difficile. Ecco, infatti ti volevo anche chiedere, tu il tuo testo l'hai intitolato La Palestina nel cuore e la speranza nel cuore. Ti volevo chiedere di quale speranza ti riferivi? Ma diciamo, parlare di speranza sicuramente, visto il contesto, è forse arduo. Diciamo che, allora, io intanto devo lasciare una premessa personale: io sono ebreo e ho vissuto il conflitto israelo-palestinese da sempre, perché appunto, tra l'altro, ho avuto mio zio che nel 38, dopo le leggi razziali, è emigrato in Palestina, nel dopoguerra è rimasto a vivere lì, ha fondato uno dei primi kibbutz, quindi è una vicenda che mi ha toccato direttamente, mi ha lacerato, quindi è una vicenda che storicamente e politicamente conosco piuttosto bene. Chiaramente io credo che molti di noi ormai hanno un atteggiamento di assecazione rispetto a un conflitto che sembra non avere via d'uscita. Anche riflettendo con le mie compagne e compagni di viaggio, diciamo che l'ipotesi oggi possono essere due: o un intervento internazionale molto autorevole, ma giustamente, come ci facevano rilevare anche i palestinesi, Stati Uniti e Unione Europea sono di fatto, insomma, ormai appiattiti in maniera incondizionata verso la posizione che appoggiano le politiche israeliane. Oppure la suggestione qual è? La suggestione è quella che, in contesto con questo, tra i tanti ragazzini che oggi spesso, l'abbiamo visto anche noi a Ramallah quando tornavamo nel dove vivevamo, che si oppongono, protestano, si scontrano con l'esercito israeliano, possa esserci un Nelson Mandela del futuro che erga su una situazione che sembra chiusa in un vicolo cieco e possa guidare il popolo palestinese, ma in qualche modo anche la società israeliana, verso un processo di emancipazione che vada oltre la dinamica che ormai da decenni sanguina quei territori. Ecco, a proposito di Nelson Mandela, diciamo un'altra cosa che ti volevo chiedere è se dal lato palestinese, visto che da quello israeliano sicuramente non è una parola che si accetta o si riconosce, si parla apertamente di apartheid. Sì, sì, ma infatti è questo, cioè è inutile girarsi intorno. È una forma di apartheid e anche una forma di pulizia etica strisciante. Tra l'altro ci diceva questo compagno che chi può, oggi come oggi, cerca di andarsene via, di emigrare. Chiaramente lo possono fare pochi, perché insomma la questione anche economica, però sicuramente c'è una situazione, insomma, di emarginazione totale. E tra l'altro, dall'altra parte, la società israeliana, che in passato comunque aveva mostrato un qualche anticorpo, alcune dinamiche importanti di opposizione, di movimento per la pace e quant'altro, oggi appare, lo vediamo anche in queste elezioni di oggi, insomma, appare sempre più appiattita su una collocazione sempre più, insomma, di destra, su una posizione sempre più arroccate che difficilmente possono dare una prospettiva. E sulle elezioni come sono percepite, diciamo, appunto le elezioni che si stanno tenendo oggi dall'altra parte, quindi appunto da parte del fronte palestinese? Mi sembra significativo questo dato che viene dai telegiornali di queste ore, che mostrano come la maggior parte, il 20% degli arabi israeliani che vivono in Israele non andranno a votare. Appunto, la situazione è completamente bloccata. L'alternativa a Netanyahu è un generale, quindi già, diciamo che la sua collocazione professionale è tutto programma. C'è una grossa sfiducia, fermo restando che il fronte popolare ha posizioni molto radicali e intransigenti, per cui quando incautamente ho fatto riferimento a Israele, ho usato il termine Israele, è stato detto: quale Israele? Insomma, noi chiamiamo il termine del 48, quindi se volete una posizione anche, insomma, eccessiva, perché volenti o non volenti Israele esiste, quindi devi farci i conti, però è emblematica di un atteggiamento di completo rifiuto e di sfiducia verso l'altra parte. Devo dire che questo, a mio avviso, è un errore, perché insomma invece l'ABC della politica ci insegna che invece sia fondamentale aprire contraddizioni del fronte nemico, e quindi rifiuto di rapportarsi, di relazionarsi con i gruppi che comunque ancora ci sono, per quanto minoritari, di opposizione alla colonizzazione, ai muri, eccetera, è sicuramente un errore. Però ecco, è chiaro che noi non possiamo metterci a fare delle lezioni. Sicuramente purtroppo c'è difficoltà, insomma, a relazionarsi, non ci sono relazioni a quanto visto, insomma, almeno da parte del fronte popolare. Poi ci sono delle organizzazioni rispetto a chi oggi in Israele, per quanto ultra minoritario, comunque cerca di opporsi alla situazione. Sicuramente la società israeliana è totalmente involuta e arroccata su se stessa, almeno questa è l'impressione. Un'ultima domanda su quelle che sono le narrazioni. Da una parte la narrazione che arriva a noi, diciamo, di quello che è il conflitto israelo-palestinese, ma anche di qual è la narrazione che arriva lì, quindi che arriva in Palestina di questo conflitto, diciamo, come funziona la diffusione delle notizie, se ne hai avuto una percezione in qualche modo. Ma appunto, il problema è che, allora, le notizie all'esterno sono molto filtrate e a noi arrivano, insomma, anche queste testimonianze che ho appena accennato, io ho raccontato nell'articolo di questi veri e propri esecuzioni di minorenni. In quel caso che io ho citato era stato talmente clamoroso che ovviamente è arrivato anche a noi, ma altri fatti che accadono tutti i giorni, che ci sono stati raccontati, esecuzioni sommarie che avvengono, non arrivano. Cioè io ho queste immagini di questi ragazzini che chiamano gli scontri e no, non finivano perché ci sono sassi contro l'esercito, ma appunto abbiamo una parte di queste notizie, ma sono notizie filtrate. Per esempio, comunque, a proposito di opposizione a Israele, un anno fa ci fu una manifestazione a Tel Aviv proprio di questi tempi di 100.000 persone contro l'espansione dei coloni, contro i muri, ma non è arrivato praticamente nulla. Questa è emblematica di un'informazione sicuramente deficitaria. Questo sì. Perfetto, io ti ringrazio molto e ti saluto a questo punto. Grazie a voi che ci ha ascoltato, buona giornata.